Non essere geloso con la donna che ami, perché non le insegni a farti del male. Non consegnare l'anima alla tua donna, perché non svilisca le tue forze. Non avvicinare una donna licenziosa, per non cadere nei suoi lacci. Non intrattenerti con una cantante, per non cadere nelle sue seduzioni. Non stare ad osservare una vergine, perché poi ne pagherai i danni. Non darti in balia delle prostitute, per non perdere il tuo patrimonio. Non curiosare per le vie della città e non vagare nei suoi angoli deserti. Allontana l'occhio dalla donna avvenente e non mirare le bellezze d'una estranea. Molti ha sedotto la bellezza d'una donna, il suo amore brucia come un fuoco. Non sederti assieme con la moglie d'un altro, in sua compagnia non bere ad una festa, perché la tua anima non le corra dietro e tu cada, insanguinato, nella perdizione. Non lasciare il vecchio amico, perché quello nuovo non l'eguaglia. L'amico è come il vino nuovo, lo bevi con gioia quando è invecchiato. Non invidiare il successo del peccatore, perché non sai come si perderà. Non gioire con gli empi contenti, perché saranno puniti prima di giungere all'Ade. Sta lontano da chi ha potere d'uccidere, così non avrai paura della morte. Ma se l'avvicini, non sbagliare, perché non ti tolga la vita. Ricordati che ti aggiri tra i lacci e cammini sui bastioni della città. Per quanto puoi, pondera i tuoi vicini e consigliati con quelli che son saggi. Conversa con gente di senno e discorri sempre sulla legge dell'Altissimo. I tuoi commensali siano dei giusti e sia tua gloria temere il Signore. Come l'artigiano eccelle per la sua mano, così un capo di popolo per la parola saggia. Il chiacchierone è temuto nella città, eppure chi parla a vanvera è odiato.